six of our common dangers. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. These doctors did not stop. Without them, I'm serious. When I tell you, I wouldn't be here. Joe Terralossi is a medical miracle. He's been to the edge and un miracolo. Ascoltando la storia, è un miracolo che gli americani si stanno svegliando stamattina. Un miracolo che ha un nome e che da bravo miracolo anche un finale positivo, allegro, felice, soprattutto vivo, perché Joe Terralossi, questo è il nome del protagonista, 56 anni, il 17 agosto mette piede nel pronto soccorso del ospedale presbiteriano di Brooklyn, sentendosi malissimo, confuso, in stato confusionale, disorientato, e poco dopo, un paio di minuti dopo, crolla per terra, e quello che è in corso è un attacco cardiaco con i fiocchi. Ma succede qualcosa di straordinario, succede che una equipe medica guidata dai dottori Raul Sharma e Flavio Gaudio, un nome tra l'altro italiano, ci fa piacere sentire suonare in questa storia, cominciano una procedura di massaggio cardiaco che durerà, si prolungherà per 47 minuti, un tempo record, del tutto inatteso, inaspettato, di solito non usuale in procedure di questo genere, che transiterà addirittura attraverso 4.500 compressioni della cassa toracica, del cuore, e 8 scariche di defibrillatore, al termine delle quali, nel più inaspettato dei modi, nonostante i due dottori adesso raccontino che dietro di sé sentivano dei mormorii da parte delle infermiere, che insomma non capivano perché loro volessero insistere, volessero andare avanti, Terralossi, il 56enne Joe, si riprende e torna semplicemente a vivere, e oggi, ad uso delle televisioni, ad uso degli spettatori americani, è anche tornato nell'ospedale a ringraziare chi gli ha salvato la vita. Una storia eccezionale. I medici raccontano di aver voluto insistere così tanto, con tanta ostinazione e testardaggine, nel tentativo di salvare il paziente, soprattutto perché l'avevano visto arrivare vivo, avevano visto una luce vitale nei suoi occhi, non volevano rinunciare a restare attaccati in qualche modo alla speranza, oltre che alla tecnica anche professionale, per compiere quello che appunto a tutti gli effetti può essere chiamato un miracolo logico, ma forse in questi casi un miracolo della convinzione, no? Della passione per il proprio lavoro e per il proprio mestiere. Primo piano. After 8 years, some of those years in which we did not have, I think, either the resources or the strategy to get the job done, it is my intention to finish the job. Vuole finire il lavoro Barack Obama, e il lavoro in questione è quello in Afghanistan, e il lavoro in questione, in base al quale sta per comunicare, per ufficializzare delle decisioni che però ormai sono già di conoscenza generale, Barack Obama mette a rischio i suoi indici di gradimento. Per questo abbiamo connesso le due storie, no? Avrà a sua volta bisogno forse di qualche scarica di defibrillatore politico, se non altro per far risalire questi indici che stanno veramente crollando, come se fossero vittime anche loro di un attacco cardiaco. C'è una nuova contrazione, il 39% dei bianchi in America secondo Gallup oggi approva Barack Obama, il 90% dei neri continua compattamente a farlo, ma soprattutto Rasmussen testimonia che ormai siamo ampiamente sotto il 50% del gradimento del operato del presidente da quando, dal 20 gennaio, amministra gli Stati Uniti d'America. La decisione in questione riguarda la cifra che ormai sembra ufficiale, 34.000 soldati americani che verranno inviati in Afghanistan a sostenere il fronte e le relative operazioni, un piano che sarà condizionato a una exit strategy. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare il primo dicembre, una scelta quindi mediana tra le tre famose ipotesi, no? I 10.000, i 30, 35.000 e i 40, 45.000 richiesti da McChrystal, abbiamo in onda un amico del nostro programma, Alessandro Politi, direttore dell'Osservatorio Scenari Strategici e di Sicurezza di Nomisma, che ringraziamo per essere con noi e a cui chiediamo, salutandolo, insomma, di darci una mano a interpretare questa scelta di una via di mezzo per cercare di smuovere le cose in Afghanistan da parte dell'amministrazione Obama. Buon pomeriggio, Alessandro. Buon pomeriggio a voi. Devo scusarmi per non avervi aggiornato in tempo reale, perché adesso sono Global Scenario Officer presso Expert Italia. Bene, ne prendiamo atto. Per venire al nostro tema, effettivamente, ancora una volta, Barack Obama dimostra di essere il primo democristiano americano della storia politica degli Stati Uniti. Democristiano, non democratico, quindi. Democratico senz'altro, però con uno stile democristiano, il che significa che Italians do it better. Certo. Si tratta adesso, per venire a un'analisi più sobria, il presidente ha evidentemente calcolato con cura vantaggi, svantaggi e soprattutto svantaggi nel non chiudere la partita. È interessante notare che, come George Walker Bush diceva che andasse finito il lavoro con Saddam Hussein, così Obama dice che va finito il lavoro in Afghanistan. Mm-hmm. E questo penso sia un cardine a cui guardare, non soltanto per la politica interna, nonostante gli indici di gradimento in calo. Obama ha, insomma, il luminoso esempio di Bush, che ha continuato a governare infischiandosene dei sondaggi per tantissimo tempo. Certo. E ottenendo anche delle decisioni efficaci. Non tutte le decisioni di Bush furono sbagliate. A questo punto però deve dimostrare la sua capacità di guida, e qui lo deve dimostrare anche ai partner internazionali. Ecco, Alessandro, ma perché non ha voluto dare soddisfazione fino in fondo a quelle che erano richieste quantitative, ma probabilmente anche strategiche, formulate dai militari? Perché è stato un po' al di sotto? Sembra un po' quelle trattative quando si chiede un prezzo per averne in realtà un altro. Forse ha pensato che i militari, il Pentagono, volesse troppo, volesse dare una impronta troppo, come dire, anche grandiosa, oltre che naturalmente costosa, all'impresa in Afghanistan? Ma credo che innanzitutto la parola costosa sia importante, perché tutto questo sforzo significa una sola cosa in realtà: siamo un fornitore di sicurezza affidabile, finanziate il nostro debito. Però se il debito va troppo oltre, non c'è finanziatore che tenga. E questo che i militari non sono chiamati a pensare, loro formulano i piani secondo quelle che sono delle valutazioni più tecniche, ma poi la sintesi politica è quella che fa il presidente, ecco perché il numero dei soldati viene ridotto. E poi dipende tutto da come si considera compiuto il lavoro, e questa è una valutazione molto difficile, perché è politica ma anche legata alla riuscita di una serie di operazioni politiche e militari. Ti darei un ultimo spunto di riflessione, una notizia che è uscita oggi: il ministro della difesa britannico Ainsworth avrebbe sferrato un attacco definito senza precedenti contro Obama per il ritardo delle decisioni sull'Afghanistan. Secondo lui il periodo di pausa avrebbe reso più difficile la spiegazione delle ragioni della guerra ai cittadini britannici. Abbiamo avuto un periodo di pausa, avrebbe spiegato Ainsworth, mentre il piano McChrystal e la sua richiesta sono stati esaminati per mesi, ci sono state le elezioni afghane, ben lungi dall'essere perfette, e tutto ciò ha mitigato la capacità di dimostrare i progressi, soprattutto alla luce delle perdite subite. In sostanza Ainsworth dice a Obama: ma a forza di queste ripartenze così faticose, come ci possiamo rapportare con l'opinione pubblica? È così? Forse la domanda più seria è: dov'è la relazione speciale tra gli Stati certo. Uniti e il Regno Unito? E la risposta è già morta nelle sabbie dell'Iraq da un bel pezzo. Dopodiché ci sono considerazioni concretissime di relazione con l'opinione pubblica, e quindi ognuno si scotta le dita al suo fuoco dei sondaggi che calano. Certo. E naturalmente prendersela con le indecisioni del capofila è comprensibile, ma insomma poi lascia il tempo che trova, perché ognuno ha, come dire, le sue gatte da pelare. Allora, i britannici sono sempre stati più bulgari degli italiani su certe cose, ma adesso hanno una pressione di opinione pubblica che li fa vacillare in modo più visibile, direi, degli italiani. Ho capito, io ringrazio Alessandro Politi e mi impegno a rinnovare dal suo prossimo intervento la presentazione della sua qualifica, e vi ricordo che il 1 dicembre, la sera tra il 1 e il 2 dicembre, Barack Obama renderà pubblico, ufficializzerà questo nuovo sforzo dell'esercito americano in Medio Oriente. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, 'cause I'm easy come, easy go, little high, little low, any way the wind blows doesn't really matter to me. Buongiorno America. Nimura, nimura, nimura. Hello everybody. Namaste. I am very pleased to welcome Prime Minister Singh to the White House on this, the first official visit of my presidency. As I said earlier, this è uno state dinner, è sempre uno state dinner, lasciatelo dire a chi purtroppo non c'è mai stato, ma comunque le 400 persone hanno sfilato in modo a metà tra il glamour, il solenne e il divertito per fare ingresso alla Casa Bianca, nella fattispecie in quella strana struttura metà tendone, metà padiglione, nel quale si svolgono eventi di questo genere quando i partecipanti sono troppi, appunto in questo caso erano diverse centinaia, con questi lampadari pieni di fiori, di piante, colori magnifici, perché arrivava Singh, primo ministro indiano. C'era in corso anche sul piano diplomatico un'operazione interessante e importante, ovvero un recupero della qualità e anche un po' della quantità delle relazioni dell'amministrazione Obama con l'India, che si sentiva un po' in questo momento parente povero, no? nel guardare dell'America verso Oriente, dopo il viaggio di Obama, che aveva invece avuto altre tappe, altre mete. Obama è stato formalmente splendido, come sempre in queste situazioni, altrettanto la First Lady, questa volta non in oro, come avevo modestamente detto, ma in crema, come persone ben più competenti di me mi hanno insegnato. E poi c'erano tanti ospiti illustri che potete vedere sfilare nella loro eleganza in tanti siti internet. C'era, io davanti a me ho la foto per esempio di Night Shyamalan, regista che peraltro adoriamo, no? Quello di Sesto Senso, di The Village, insieme alla sua signora Bhavna. E c'è un dato anche, come dire, di cultura pop da osservare all'interno di questo appuntamento che poi, come vi dicevo, aveva anche un retrogusto politico ben chiaro. Non avrete migliore amico degli Stati Uniti, ha detto Obama al premier indiano. Si è parlato di cambiamenti climatici, si è parlato di un accordo organico in vista del vertice di Copenaghen, si è parlato di nucleare, insomma si sono un po' rinfocolate le relazioni, ma il dato che ci ha interessato più di tutti proprio in questa sfilata di VIP più o meno improvvisati è ciò che Obama in realtà ha portato ben dentro la Casa Bianca, ma poi francamente ben dentro l'America del XXI secolo, che è la multirazza, ovvero le sacre stanze della Casa Bianca di Pennsylvania Avenue non sono più frequentate ormai da una aristocrazia solidamente, no, addirittura irlandese, non solo bianca, ma con naturalmente rapporti e agganci e interlacciamenti di vario genere con la componente ebrea d'America o con quella scandinava o anche con quella italiana, ma qui c'è il mondo a tutti gli effetti, c'è tantissima Asia, ci sono tantissimi afroamericani, ci sono alcuni sparuti bianchi, spicca per il suo pallore in questa galleria di presenze alla Casa Bianca nella cena di gala di Obama per l'India, quella di Steven Spielberg. E poi ci anche da così vi voglio sottolineare, soprattutto per le signorine all'ascolto, una nota mondana rilanciata da Huffington Post, che fa sapere che lo scapolo più desiderato della Washington 2009 e secondo me pure 10, ovvero Jon Favreau, ovvero lo speechwriter, quello che scrive di discorsi per Barack Obama, che è un bel ragazzone così anche un po' nerd, però sempre col computer dietro, è quello che scrisse il famoso discorso dell'inaugurazione di Obama in uno Starbucks, no? Divorando drink di quelli energetici per restare svegli, ma poi vergando a tutti gli effetti quel capolavoro che evidentemente la sua cultura e la sua formazione gli hanno permesso. Ebbene, Jon Favreau è andato a questa cena da solo, non ha trovato la ragazza giusta in tutta Washington per accompagnarlo. Bene, si sappia, evidentemente, come dire, un bersaglio mobile è in vista. I media americani il giorno dopo giudicano fondamentalmente un successo il ricevimento a casa Obama. Edelweiss, chi è Edelweiss? Ormai avrete capito, l'identificazione irresistibile, no? Tra tutti insieme appassionatamente, la famiglia Palin e soprattutto il giro, tutti insieme appassionatamente su quel bus, grandi e piccini, ci immaginiamo un po' dentro il bus, perché si porta dietro anche i genitori, quindi sono anziani dagli 8 agli 80 anni, anzi dagli 8 mesi agli 80 anni, tutti i Palins a bordo del bus che gira l'America per presentare il libro di Sara, e le notizie di oggi sono un paio, entrambe ragguardevoli. La prima è che si sono chiusi i bilanci di vendita della prima settimana, i numeri sono terrificanti, 700.000 copie vendute di Going Rogue, secondo solo nella storia dell'editoria americana per quello riguarda la saggistica al My Life di Bill Clinton, che ne vendette 900.000, però era un libro noiosissimo, My Life di Bill Clinton, credetemi. Questo è molto più imperfetto, ma anche più divertente, sicuramente più ventunesimo secolo, non so come dire. Non a caso l'editore ha già elevato a 2,5 milioni di copie le tirature e chissà dove si arriverà. L'altra notizia che riguarda Edelweiss Sara Palin è che è andata a trovare Billy Graham, che è il leader di 65 milioni di seguaci fedeli americani che vanno sotto la dizione di evangelici, e siamo naturalmente dalle parti della destra conservatrice americana, ma c'è stato un accoglimento ufficiale nella sua casa del North Carolina di Billy Graham, del vecchio Billy Graham, nei confronti di Sarah Palin. E guardate che da un punto di vista politico questa è una cosa che conta assai. Certo non è stata fatta nei confronti di John di John McCain, e poco alla volta, ma con grande rapidità e anche con una certa incisività, si comincia a delineare quello che ha tutta l'aria di essere una scommessa elettorale. Poco fa su Fox addirittura passavano dei finti badge, no? Con un ticket Sarah Palin, Glenn Beck, che è quello provocatore televisivo, insomma, qualche brivido sulla schiena ci corre, ma di fatto Sarah Palin continua a girare l'America, a vendere libri e a guardare lontano. Notizia dell'ultima ora, le dimissioni del responsabile al Pentagono della chiusura di Guantanamo. Ha rassegnato le dimissioni dopo 7 mesi in carica. Si chiama Philip Carter, vice assistente segretario alla difesa per la politica dei detenuti. Ha dato le dimissioni per non meglio specificati motivi personali, il 34enne avvocato Carter. I motivi ve li possiamo suggerire noi, ma non c'è neanche bisogno. Insomma, Guantanamo non si chiude per ora, e essere segretario di una chiusura non avvenuta non deve essere facile, quindi dimissioni comprensibili. Ne parleremo ancora qui a Buongiorno America. Io sono Stefano Pistolini, in redazione Gloria Guerrera, in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Roberto Scaltritti. La mail buongiornoamerica è @radio24.it, la pagina Facebook è redazione Jefferson 3. La replica dopo mezzanotte, la diretta all'1:30 domani, poco dopo l'1:30 domani qui su Radio 24. State tutti bene.